sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Non ci rassegniamo, Susanna Camusso dal palco, giusto scioperare, Confindustria e gli altri sindacati dicano da che parte stanno. Non cambieremo le modifiche all'articolo 18, il ministro Sacconi risponde, mentre nel pomeriggio la manovra sarà al Senato e potrebbero tornare IVA e super prelievo. Giornata difficile ancora per le borse, sotto pressione i titoli italiani. Libia, Gheddafi in Niger, mentre parte l'assalto alla roccaforte dei lealisti, camion carichi di oro avrebbero già varcato la frontiera. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Da circa un quarto d'ora è terminato il discorso del segretario della CGIL Susanna Camusso a Roma. Oggi è sciopero generale della CGIL nelle ore in cui la manovra approda in aula al Senato. E allora cominciamo tornando nella piazza romana da Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno, le 100 piazze oggi in Italia sono le piazze di chi non si rassegna, di chi non è disposto a rinunciare ad un paese migliore, noi non ci rinunciamo, così Susanna Camusso ha esordito nel suo comizio finale scandito più volte dagli applausi, conclusosi poco fa sulle note di Bella Ciao. Ha sferrato Susanna Camusso un duro attacco al governo, un governo inaffidabile, ha detto che una manovra che continua ad accanirsi su più deboli, in particolare non va giù al sindacato di Corso d'Italia, l'articolo 8 ribadestato norma sui licenziamenti facili, una vergogna, occorre cancellarle, useremo tutte le strade, compreso il ricorso alla Corte Costituzionale. Poi un messaggio a CISL e UIL, grandi assenti, più volte fischiati da manifestanti e a Confindustria. Sentiamo Susanna Camusso. Non si può dire per un mese l'autonomia delle parti sociali e poi quando il governo interviene provare a dire che c'è coerenza tra quelle due cose. Noi chiediamo oggi alle altre organizzazioni, a Confindustria, alle associazioni che non hanno fatto l'accordo, scegliete, o c'è l'accordo sindacale o c'è la legge, tutte e due non sono possibili. Ci hanno detto che abbiamo sbagliato a scioperare, ci hanno detto che non era il momento e io vorrei qui usare lo slogan che ha usato un'importantissima piazza a febbraio, se non ora quando? Se non adesso, quando si discute. E dal palco la Camusso è infine rilanciato sulla contromanovra della CGIL, il cui slogan deve essere paghi un po' di più chi ha pagato poco e finalmente paghi chi non ha mai pagato, occorre dunque partire, dice il segretario, dalla tassazione delle grandi ricchezze e dei patrimoni. Ed è tutto. E grazie ad Alessandra Schepisi. Momenti di tensione aggiungiamo nei cortei di Milano e Napoli. A Milano lanci di uova di fumogeni sono partiti dal corteo al passaggio dei centri sociali contro sedi di diverse banche. A Napoli momenti di tensione davanti alla sede della Banca d'Italia, dove durante il comizio finale sono stati esplosi quattro grossi petardi. La polizia in assetto antisommossa ha respinto i manifestanti e una persona è stata condotta in questura. E reazioni già ci sono state dalla politica al discorso di Susanna Camusso. Andrea Viali. Sì, Anna, la protesta della CGIL divide le forze politiche con il sindacato. Lo sappiamo, abbiamo sentito, sono scesi in piazza i partiti di opposizione, ad eccezione del Terzo Polo che, pur criticando la manovra, giudica un errore questo sciopero generale. Ai cortei della CGIL hanno invece partecipato diversi esponenti del Partito Democratico, ma anche dell'Italia dei Valori, di Sinistra Ecologia e Libertà. Bersani ha sfilato a Roma, proprio accanto alla Camusso, l'articolo 8 va stralciato, ha detto il segretario del PD, secondo il quale la manovra deve essere corretta. Sentiamolo. Certamente questa manovra va rafforzata e va rafforzata anche la coesione di questo Paese. Noi abbiamo idee per rafforzarla. Più risparmi nella pubblica amministrazione, un'imposta sulle grandi patrimoni immobiliari, una operazione sulle liberalizzazioni serie. In due minuti ci hanno bocciato tutti i nostri emendamenti, riprendiamoli, che sono seri. Di tutt'altro tenore sono invece i commenti che arrivano dalla maggioranza. Secondo Cicchitto del Popolo delle Libertà, lo sciopero è irresponsabile e la CGIL dimostra di non essere consapevole della gravità della situazione. Il centrodestra accusa poi il Partito Democratico di essere succube del sindacato di Corso Italia, mentre il ministro del welfare Sacconi sottolinea che il governo non ha alcuna intenzione di cancellare l'articolo 8 della manovra. Per ora è tutto. Grazie anche Andrea Viali. Ci sono anche altre reazioni, altri umori che pesano, quelli dei mercati. Allora sentiamo come va la giornata su questo fronte. Deborah Rosciani. Buongiorno Anna. I listini europei stamattina tentano il rimbalzo dopo due sedute di profondo rosso, ma per la verità questo rimbalzo appare assolutamente poco convincente per Milano, che è molto indecisa su quale direzione prendere. Adesso c'è un risicatissimo più 0,08%. Sul FTSE MIB un po' più convinte le altre piazze, soprattutto Londra guadagna l'1,46%, Parigi più 0,83%, Francoforte in rialzo dell'1,25%. Peraltro Francoforte oggi ha dovuto affrontare anche il pessimo dato sugli ordini industriali di luglio, meno 2,8% per questa statistica macroeconomica, peggiore delle attese, ma in ogni caso sembra abbastanza digerita dal mercato. A Milano stanno tentando il rimbalzo alcuni titoli del settore industriale, ma non tutti, perché per esempio la Galassia Fiat sta continuando a scendere pesantemente e tornano a scendere alcuni titoli del comparto bancario, la Popolare di Milano per esempio meno 2,21%, perché ci sono nuove nubi sulla prospettiva dell'aumento di capitale per il gruppo e il gruppo ne ha molta necessità di questo rafforzamento. Una notizia che ha movimentato la seduta è stata quella che è arrivata dalla Svizzera, perché la Banca Centrale Svizzera ha deciso di fissare il tasso di cambio a 1,20 franchi svizzeri per un euro, e questo per bloccare il continuo rafforzamento della divisa elvetica. Qual è stata la reazione? L'euro ha avuto un fortissimo apprezzamento immediato nei confronti del franco e si è portato subito a 1,20, livelli sui quali naviga in questo momento. Il picco minimo di stamattina è stato a 1,10 e si è rafforzato anche sul dollaro a 1,42 abbondante, adesso ripiegando a 1,41,71. Tanto per parlare di record, stamattina abbiamo avuto l'ennesimo anche sull'oro a 1921 dollari l'oncia. Lo spread fra titoli di Stato italiani e quelli tedeschi stamattina si è allargato ancora, toccando i 380 punti base, naviga adesso sui 370. Anna, è tutto. Grazie a Deborah Rosciani. Sentivamo tra le questioni dibattute ci sono le modifiche sul fronte delle relazioni del lavoro, il famoso articolo 8 che modifica l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Carlo Della Ringa, docente di economia politica alla Cattolica, subito la domanda: l'Europa è l'Europa che ci chiede queste modifiche? Ma io penso che innanzitutto l'Europa ci ha chiesto una maggiore flessibilità, una riforma del mercato del lavoro, ma non ha chiesto espressamente una modifica dell'articolo 18, ancorché potrebbe essere una cosa utile da fare. Quindi è chiaro che all'Europa bisogna dare una risposta sui temi del lavoro affinché il mercato funzioni in modo più efficiente, contribuisca alla crescita. Il problema è di capire come. Questo articolo 8 secondo me è molto ambizioso, in quanto come messaggio generale comporta un cambiamento radicale di tutto il diritto del lavoro e anche delle relazioni industriali, affidando alla contrattazione aziendale questo potere di determinare un diritto del lavoro ritagliato a misura di ogni azienda. Quindi è una rivoluzione. Ora, in questo settore le rivoluzioni si dimostra che difficilmente si fanno e che talvolta è più produttivo procedere per passaggi successivi. Di per sé l'articolo 8, consegnando alle parti sociali questo potere, non disturba più di tanto le parti sociali, ma io ritengo che difficilmente possa trovare applicazione immediata un articolo che rivoluziona così tanto la fonte del diritto del lavoro. Io penso che soprattutto come è scritto in poche righe, non completo e ancora generico, potrebbe dar luogo a un contenzioso molto forte. Io quindi penso che le imprese, prima di utilizzarlo, vorranno essere molto sicure che cambiando qualche cosa, sia pure insieme ai sindacati, questo non venga poi impugnato per qualche ragione relativa alla legittimità o alla costituzionalità delle proposte e delle intese. Ecco, secondo lei questa discussione ha influenzato la piazza di oggi o questa è una discussione di là da venire? Questa è una discussione di là da venire perché, diciamo così, questo articolo 8 inserito improvvisamente nella manovra ha subito assunto una carica politica molto forte nel dibattito, è di fatto molto molto politico. Di là da venire secondo me è che l'articolo 18, che in sé ha alcuni spunti, aspetti molto interessanti, come l'erga omnes dei contratti aziendali, come è l'allargamento dei temi che possono essere oggetto di contrattazione aziendale. Ecco, questi punti secondo me dovrebbero essere ripresi dalle parti sociali al fine di completare al meglio quegli accordi che le parti sociali hanno già intrapreso a fare, come quello del 28 giugno. Ecco, in questo ambito io penso che se vengono inseriti in questo ambito di relazioni industriali le novità potrebbero essere ancora più diciamo così interessanti e utilizzabili da parte dello stesso mondo delle imprese. E grazie a Carlo Della Ringa, docente di economia politica alla Cattolica. Fin qui la piazza e le discussioni, però allora sentiamo che succede in concreto sul fronte della manovra. Andiamo al Senato da Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Sul fronte della manovra l'attenzione è puntata da una parte sui tempi per arrivare al varo del decreto al Senato, dall'altra sulle ulteriori e possibili correzioni al provvedimento auspicate anche dal Capo dello Stato, visto il perdurare della sfiducia dei mercati sull'economia del nostro Paese. Quanto ai tempi, sarà la Capigruppo di Palazzo Madama convocata per le 15.30 a decidere quando arrivare al voto. Governo e maggioranza puntano a chiudere entro domani per passare così alla Camera. Anche l'opposizione non dovrebbe mettersi di traverso, pur annunciando che voterà per il no al decreto. Resta comunque ancora aperta l'ipotesi della fiducia, ma come dicevamo sono ore queste di continui contatti e colloqui all'interno della coalizione di governo per apportare altre modifiche al testo che consentano di mantenere fermi i saldi della manovra. Ieri il pressing senza esito di Berlusconi e Tremonti sulla Lega sulle pensioni, tra breve nuovo vertice di maggioranza a Palazzo Grazioli. Non è escluso che si possa ricorrere all'aumento dell'IVA e al contributo di solidarietà sopra i 200.000 euro. Su tutto ciò pesa l'appello del Capo dello Stato perché si faccia di più. Napolitano ha auspicato una manovra più efficace e credibile, quindi rivolta a tutte le forze politiche perché cessino pregiudiziali e incomprensioni. E da Roma è tutto. E grazie anche a Vincenzo Miglietta. Che succede intanto sul fronte dei trasporti e dei disagi? Per lo sciopero, secondo la CGIL, l'adesione è stata del 58%. E allora sentiamo con quali conseguenze. I maggiori problemi ci sono per chi deve spostarsi. Cominciamo da Roma. Ferme fino alle 17 le linee A e B della metropolitana e le linee Roma-Lido, Roma-Viterbo. A Milano treni e bus saranno fermi dalle 18 fino alla fine del servizio, mentre per i pendolari treni fermi dalle 9 alle 17. A Torino la metropolitana e le linee urbane saranno di nuovo attive dalle 15 alle 18. Disagi anche negli aeroporti. I lavoratori del settore aereo sono fermi fino alle 18. Taxi presi d'assalto nella capitale. Lunghe file per lavoratori e turisti, molti dei quali hanno dovuto rinunciare alle classiche visite ai monumenti. Chiusi infatti il Colosseo, il Foro Romano, la Galleria d'Arte Moderna e Villa Borghese. Io sono venuta di Firenze. Il treno un ritardo di 20 minuti. Siamo venuti al Colosseo. Ma i disagi non si sono limitati ai trasporti. Ferme nella capitale anche molte sale operatorie degli ospedali. Francesco Marinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E allora le notizie per chi viaggia, noi torniamo tra poco. Parleremo tra l'altro di Libia perché sembrano prospettarsi novità. Tra poco. Le 13 e 16 minuti, le notizie di oggi di GR24, noi non ci rassegniamo. Susanna Camusso dal palco per lo sciopero generale, giusto scioperare, Confindustria e gli altri sindacati dicano da che parte stanno. Non cambieremo le modifiche all'articolo 18, il ministro Sacconi risponde, mentre nel pomeriggio la manovra sarà al Senato e potrebbero tornare IVA e superprelievo. Giornata difficile ancora per le borse, sotto pressione i titoli italiani. Libia, Gheddafi, Niger, mentre parte l'assalto alla roccaforte dei lealisti. E allora ripartiamo proprio dalla Libia. Come dicevamo, i ribelli, ormai ex ribelli, stanno cominciando a muoversi verso Bani Walid, sede della base militare degli uomini di Gheddafi. Sarebbe stato raggiunto un accordo per entrare senza combattere. Intanto una fonte nigeriana riferisce di voci sulla presenza nel paese del Rais o dei suoi figli. Gheddafi avrebbe anche preparato la fuga del suo tesoro. Camion carichi di oro e denaro avrebbero varcato stanotte il confine della Libia, diretti appunto in Niger. Qui con me, di ritorno da Tripoli, dove ci ha raccontato quanto stava succedendo, l'avete sentito a lungo nei giorni scorsi, Roberto Buongiorni, che saluto. Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, credibile innanzitutto secondo te la fuga di Gheddafi e i camion carichi di oro? Tutto ciò che viene in Libia va preso col beneficio del dubbio, però è plausibile perché il Niger è un paese che è molto vicino a suo modo a Gheddafi. Gheddafi ha sempre cercato col suo denaro di destabilizzare l'area del Sahel. È Gheddafi che è sempre stato dietro le rivolte dei Tuareg nella famosa guerra dell'uranio, e non è un caso l'uranio, contro il governo del nigerino. È Gheddafi che ha arruolato migliaia di mercenari Tuareg che abbiamo visto di persona prigioniere dei ribelli. È Gheddafi che ha siglato l'accordo di pace nella rivolta tra i nigerini Tuareg e il governo del Niger nel 2009, proprio a Seba, nella sua roccaforte. Quindi è plausibile che Gheddafi abbia buoni contatti, tant'è che ci sono voci che a bordo di questo supposto convoglio con 200 blindati ci sia addirittura Rissa Agbula, uno dei leader del movimento Niger Movement for Justice, il movimento Tuareg, che è stato comunque adesso, ha raggiunto questo accordo di pace. Quindi i contatti li ha, in Niger è una plausibile via di fuga, e Gheddafi i soldi li ha, anche perché sono circolate voci di fondi da Sirte che sono arrivati non si sa come, non si sa perché, a Bani Walid, e da lì alla volta sarebbero andati al Niger. Il mistero resta perché la NATO non è riuscita a individuare un carico così ingombrante, si parla anche di 200 obbligati. Dall'altro, la NATO ha risposto comunque che il loro compito è proteggere i civili e non fermare i convogli. Quindi questi camion che si spostano con carichi di oro sono comunque plausibili, ma da giorni ormai parliamo dell'assalto rinviato, poi annunciato più volte, a questa roccaforte. Sta qui l'epilogo, secondo te, o sarà solo una delle battaglie che dobbiamo aspettarci? Secondo me assolutamente no. Bani Walid è sì importante, ma è una cittadina di più 100.000 abitanti. C'è sì la tribù Warfalla, che è importante perché è la più grande della Libia, ma è suddivisa in 6 sottoclan, e alcuni Warfalla sono addirittura nelle file tra i ribelli. La vera svolta avverrà, se avverrà, ma non si sa quando, a Sirte. Quando cadrà Sirte e come cadrà sarà un po' un punto di svolta. Per quanto concerne Gheddafi, invece, resterà sempre un mistero come dove si trovi. E grazie a Roberto Bongiorni, rientrato con noi a Milano, ma continuerà naturalmente ad raccontarci quanto sta succedendo in Libia. Intanto però c'è una novità che ci riguarda sul fronte del gas, perché è operativo da oggi il Nord Stream, il gasdotto controllato invece da Gazprom, che unisce i grandi giacimenti russi alla Germania passando sul fondale del Mar Baltico. Tagliare fuori i paesi baltici e la Polonia, imporre la propria politica energetica all'Ucraina, con cui Mosca negli ultimi anni ha inanellato una lunga serie di contenziosi sulle forniture di gas e i diritti di transito, vendere soprattutto gas alla Germania, ma anche a Francia, Regno Unito, Olanda e Belgio, senza intermediari. Il primo ministro russo Vladimir Putin sceglie la conferenza del partito di governo Russia Unita in corso a Cerevopets per annunciare l'apertura ufficiale di Nord Stream e parla di una nuova indipendenza energetica. Lo abbiamo fatto con calma, senza alimentare tensioni, ma liberandoci della dittatura dei paesi di transito. Messaggio chiaro ai vicini litigiosi, ma anche all'Europa e al mondo. Mosca, quando si tratta di affari, è un partner affidabile. Da novembre saremo in grado di distribuire gas all'UE, aggiunge, proprio in tempo per l'inverno. Il Nord Stream lascia la Russia a Vyborg, vicino al confine finlandese, e atterra nel Mecklenburgo, a 200 km da Berlino. 1220 km di tubi capaci di consegnare 27 miliardi di metri cubi di gas l'anno, destinati a raddoppiare già nel 2012, quando sarà ultimato il raddoppio della linea. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Voltiamo pagina, torniamo alle vicende italiane per parlare di Parma. Parma ha una nuova giunta, il sindaco Pietro Vignati ha azzerato, dopo le proteste di piazza, ricorderete, dei mesi scorsi, l'esecutivo, e dato via al rimpasto. L'amministrazione parmense è al centro di uno dello scandalo tangente appalti truccati, i cittadini chiedono le dimissioni. Barbara D'Amico ha sentito il sindaco Pietro Vignati. Non vedo le ragioni per cui dobbiamo dimetterci, nel senso che c'è stata un'indagine a Parma che ha portato all'arresto di 3 dirigenti comunali per dei fatti estremamente personali, e quindi la responsabilità penale è personale. Non vediamo cosa debba centrarci la giunta o il sindaco. In Italia, insomma, c'è pieno di situazioni analoghe dove però nessuno chiede dimissioni del responsabile politico, perché Penati era il responsabile politico di Bersani, della segreteria politica di Bersani, ma nessuno ha chiesto dimissioni di Bersani. A Venezia anche lì c'è stata un'indagine che ha portato in galera 16 dirigenti comunali, ma nessuno ha chiesto dimissioni del sindaco. E di Parma e della situazione a Parma continueremo a parlare, speciale domani alle 6:30 con Controluce. Il caso Tarantini, in attesa dell'interrogatorio di Silvio Berlusconi, come parte offesa si indaga sul ruolo dell'avvocato Ghedini. La data non è stata ancora fissata, ma il luogo sì. Per essere ascoltato dai PM di Napoli, Berlusconi ha deciso di incontrare i magistrati a Palazzo Chigi. Il presidente sarà sentito come vittima del reato di estorsione che gli inquirenti ritengono sia stato compiuto ai suoi danni da Giampaolo Tarantini, dalla moglie Angela De Venuto, detta Nicla, e da Walter La Vitola. Secondo la ricostruzione dei magistrati napoletani, i tre avrebbero ottenuto ingenti somme di denaro dal premier con la promessa di tacere sulla vicenda delle escort. Intanto, nella sua ordinanza, il giudice Amelia Primavera scrive che l'avvocato del premier Niccolò Ghedini sapeva dei trasferimenti di denaro. A margine del caso prosegue la guerra fra le procure. Oggi la prima commissione del CSM esaminerà l'esposto inviato dall'ex sostituto procuratore di Bari Giuseppe Scelsi contro il procuratore della Repubblica Antonio Laudati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In questi istanti un flash d'agenzia: la prima commissione del Consiglio Superiore della Magistratura ha deciso che nei prossimi giorni ascolterà il procuratore appunto della Repubblica di Bari Antonio Laudati e il consigliere Giuseppe Scelsi nell'ambito degli accertamenti avviati sui presunti ritardi nell'inchiesta su Tarantini e le escort. La commissione ha deliberato di richiedere alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce tutte le notizie ed informazioni consentite in relazione agli eventuali procedimenti relativi ai magistrati della Procura di Bari. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, invece, Martino Rosati, ha archiviato ufficialmente oggi l'accusa di omicidio per lo zio di Sara Scazzi. È stata accolta la richiesta della Procura di Taranto. Michele Misseri, lo zio della quindicenne Sara Scazzi, uccisa da Vetrana il 26 agosto del 2010, è stato prosciolto dall'accusa di omicidio. Accusa che resta ora a carico della figlia, Sabrina Misseri, in carcere dal 15 ottobre dell'anno scorso, mentre la moglie, Cosima Serrano, è accusata di concorso in omicidio. Michele Misseri, ora imputato solo per la soppressione del cadavere di Sara, non ha saputo indicare con precisione l'arma con la quale è stata uccisa la nipote, né dove l'avrebbe eventualmente nascosta. Per questi due motivi il GIP del Tribunale di Taranto Rosati ha deciso di firmare il decreto di archiviazione dell'accusa di omicidio nei confronti dell'agricoltore di Avetrana. La famiglia Scazzi, costituitasi parte civile dal canto suo, ha intanto depositato la richiesta di risarcimento danni nei confronti dei Misseri. Giacomo Scazzi, sua moglie Concetta e il figlio Claudio hanno chiesto 3 milioni di euro a testa nei confronti di Michele Misseri, della figlia Sabrina e della moglie Cosima, più 1 milione di euro a testa nei confronti di Carmine Misseri e Cosimo Cosma, rispettivamente fratello e nipote di Michele, accusati come lui della soppressione del cadavere. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Gli organi di Salvatore Licitra, il tenore considerato l'erede di Pavarotti, morto ieri dopo 9 giorni di coma, hanno salvato 3 pazienti in lista d'attesa. Il fegato, un rene e le corne sono stati destinati a trapianti. I primi 2 sono già stati utilizzati questa mattina in 2 interventi a Palermo. Le corne sono depositate alla banca degli occhi. Voltiamo pagina, siamo allo sport. Archiviate, si spera, le polemiche sugli allenamenti, va in scena la nazionale di calcio. Io saluto anche oggi Dario Ceccarelli, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Allora, si va in scena? Sì, si va in scena stasera alle 20.45 a Firenze. Se l'Italia batte la Slovenia, gli azzurri si qualificano con 2 turni d'anticipo, che sarebbe quasi un record, è un record nella storia del calcio italiano. Ora, è vero che nell'ultima partita gli azzurri non avevano brillato, però è anche vero che l'Italia che si qualificherebbe con 2 turni d'anticipo sarebbe quasi un record, che va aggiunto al fatto che dai mondiali in Sudafrica eravamo usciti con una squadra a pezzi, e quindi tutto sommato, anche se nell'ultima partita il gioco non era stato brillantissimo, bisogna saper apprezzare i passi avanti che si sono fatti in questo periodo. Ecco, il problema è che Firenze, dove si gioca, al momento è un po' freddina, biglietti venduti pochi, e Prandelli è preoccupato perché teme che, insomma, si possa arrivare al paradosso, alla beffa di una qualificazione guadagnata con 2 turni d'anticipo davanti a uno stadio mezzo vuoto, e questo non è proprio il massimo. Senti Dario, io prima dicevo archiviate le polemiche, è davvero risolto il caso Balotelli? Ma il caso Balotelli è una storia infinita. Ieri si è parzialmente risolto. soprattutto il giocatore che era stato a visitare il carcere di Solliciano vicino a Firenze, è stato accolto dai detenuti come una star, come il ragazzo che tutti vorrebbero essere. Lui ha spiegato che l'iPad durante la partita l'aveva spento, eccetera eccetera. È un caso che secondo me Balotelli farà discutere per tutta la sua vita di giocatore. È uno di quei casi in cui si dice sempre bisogna recuperare l'uomo, in questo caso salvare l'uomo, in questo caso bisogna salvare il giocatore dall'uomo, perché la questione è che i suoi atteggiamenti mortificano il grande talento che ha questo ragazzo, e purtroppo è una storia infinita. È una storia infinita. Una storia infinita. Grazie a Dario Ceccarelli. Le 13:27:30, proprio in questo istante, con GR24 noi ci fermiamo qui. Roberto Scaltritti in regia, Danna Migliorati, ancora una buona giornata. GR24 vi aspetta come sempre alle 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.